Sick look, sick look. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Stai sotto con i soldi, passi guai. Succo di zenzero e combino guai. Passi di qua, passi dei guai. I soldi portano a puttane guai. Puttane portano soltanto guai. Sto fumando quando fumo quella dai. Della mia gang un cazzo ne sai. Postati giù a rione come samurai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai. Passala a noi o passi guai. Passala a me o passala sai.